noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attenzione a Higuain che si propone sul lato destro, palla per lui, c'è un buco clamoroso, opportunità e c'è il tocco vincente. 1-0 Juve, 12 minuti, l'esultanza del pipita Higuain. Le telecamere vanno su De Laurentiis. Per andare oltre la leggenda ci vogliono, non bisogna fare le cose normali e non basta un impegno normale, ci vuole molto di più e non ci vogliono solo ovviamente dei bravi giocatori, ma ci vogliono dei giocatori meravigliosi come ho a disposizione. Di questo ne vado fiero perché sono dei ragazzi straordinari e fino alla fine sicuramente lotteranno per il titolo. Classifica. Ci sono tre punti importantissimi e noi vogliamo andare a tentare di portarli a casa. Se poi il prossimo avversario si chiama Juventus, non è che possiamo fare discorsi differenti, perché ormai abbiamo seminato in quella direzione lì e bisogna essere coerenti, insomma. Poi loro sono un avversario impossibile, nel senso sono 6 anni che vincono, che fanno finali da tutte le parti, per cui sarà sicuramente una bella sfida. Buongiorno a tutti, il nostro autore Gianmarco Ferronati in regia, che ringrazio perché c'è una delle voci più belle del rock, Chris Cornell, fu poveretto a sottolineare una giornata di campionato interessantissima che aveva abbagliato nella vittoria della Juventus a Napoli. Mi ha convinto dell'idea del mio amico Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Pronto? Pronto? Io sono. No, io stavo usando un inciso. Mi ha convinto l'idea del mio amico Pierluigi Pardo sul fatto che l'Inter sia da corsa e sul fatto che la partita di sabato sera a Torino sia qualcosa di estremamente interessante e serio, così come è stata quella che tu hai commentato peraltro venerdì sera, ed è stata la partita più bella della stagione secondo me nel campionato italiano, per mille motivi che proveremo almeno in parte a sottolineare di nuovo. Dicevo, questo è il dato politico della giornata, cioè il Napoli che si arrende in quel modo alla Juventus, e qualche segnale di resa c'era già prima. La Juventus che va a Napoli e gioca nel segno di Allegri la miglior partita della sua stagione, e ho rivisto la Juventus pigliatutto degli anni passati. L'Inter che non molla niente, che ha in questo momento, io continuo a dirlo, in questo momento storico preciso, il 4 di dicembre del 2017, quello che è il più forte centravanti del mondo e si chiama Mauro Icardi. Poi giochiamocela con Higuain, giochiamocela con degli altri, ma sto parlando solo di questo momento. Poi c'è la Roma che non molla, c'è la Lazio che deve giocare ancora una partita da recuperare ma sta sempre lì, c'è il segno delle cinque sorelle, insomma di tutto questo parliamo. Ciao Giancarlo Marocchi, grazie. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Pier. Ciao Gianca, io sono rimasto impressionato dalla vittoria della Juventus dell'altro giorno e dal modo in cui è stata preparata e impostata questa partita. Allegri, come era già successo, è andato lì dicendo: bene, questa partita così importante la giochiamo con lo schieramento che piace a me, difesa a 4, con la pattuglia davanti guidata da Khedira, che non ha concesso nulla al Napoli dopo quel gol di Higuain, con Higuain che esulta, guarda verso la tribuna, mano al presidente, non l'ho visto. Insomma, è stata una serata che, se fossi juventino, non lo sono, mi porterei nel cuore e nei ricordi. Grande godimento. Certamente, perché Allegri è stato geniale e dico io fortunato, perché non so cosa stesse pensando 4-5 giorni prima della gara. Nel senso che se hai Mandzukic che non si fa male, che formazione fai? Perché alla fine finalmente due esterni come si deve, di ruolo, uno che fa la mezzala e un po' l'esterno Matuidi, dall'altra parte Douglas Costa, ecco che è diventata anche armonica questa formazione, che vince, stravince, che ne dica Sarri, che ha avuto un sacco di possesso palla. E la cosa clamorosa che io sottolineo, cioè abbiamo fatto così in fretta che dopo quella partita nei discorsi di tutti sembra quasi archiviato il Napoli come candidato allo scudetto. Non lo è, cioè, Non lo è. Chiaramente non lo è, però è stata talmente forte sta vittoria significativa che adesso l'attenzione si è spostata tutta sull'Inter e sulla Juventus. Va bene che c'è la partita, tutto quello che vogliamo, ma ho avuto questa sensazione. Napoli ha faticato e secondo me è anche un problema così di tenuta quasi emotiva, perché Sarri non ci è piaciuto a me, ma Pierluigi Pardo mi fa lezioni di comunicazione giustamente tutti i giorni. Non ci è piaciuto nel dopo partita, sentiamo una battuta di Sarri così introduciamo l'argomento. A livello di collettivo non c'è molto da dire, a livello di brillantezza nel risolvere situazioni davanti, in questo momento siamo un po' in difficoltà. Raramente l'avevamo visto e sentito così scosso, no, Pierluigi, il Sor Sarri, che l'altra sera è stato incartato dalla Juventus, le storie del possesso palla, del fatto che Higuain ce l'hanno gli altri, non ce l'ho più io, eccetera, a me sanno tutte di mezza verità. In realtà il Napoli è un po' di tempo che lo vediamo affaticato. Sì, guarda, io dicevo anche ieri, insomma, a me non è piaciuto molto, vabbè, il riferimento a Higuain, perché mi sembra che Higuain appartenga al passato e quindi temo che una cosa del genere finisca per poter dare un alibi. Stiamo parlando di piccoli dettagli di comunicazione, per carità, insomma, non è... Ma è che è importante. No, certo che è importante, però non cambia, non stravolge il giudizio complessivo sul gioco di Sarri o sulla qualità di Sarri, che è indiscutibile. Però ecco, il post partita non mi è piaciuto molto, secondo me, nel comunicare un senso, insomma, come se il Napoli avesse condotto il gioco. Secondo me non ha condotto la partita, sinceramente. No, ha fatto no, abbastanza quello che ha voluto. Bravo. Nel senso, che è così, secondo me. Nel senso, quando tu vai fuori casa sul campo della capolista, hai una palla gol dopo qualche minuto, vai 1-0 dopo 12 minuti e praticamente non rischi mai. Tanto è vero che forse le occasioni migliori sono state quelle di Benatia e poi nel secondo tempo la super parata di Reina. Beh, insomma, vuol dire che ha fatto una grande partita, al di là del fatto che poi il possesso palla o la prevalenza territoriale sia stata del Napoli, che è oggettivo. Quindi no, non mi è piaciuto tanto il post partita, devo dire la verità. E chiaramente il Napoli è ancora in corsa, ci mancherebbe altro, è stra in corsa per il campionato, però credo che debba trovare delle alternative, perché in una giornata come quella, nella quale appunto non riesci a passare attraverso il tiki-taka, attraverso il possesso palla, devi avere qualche soluzione di tipo diverso. Sì, alternativa, e il mercato sarà decisivo. Sì, sarà decisivo. Io così penso a Duan Zapata, che insomma anche ieri ha fatto molto bene, un giocatore che a Napoli secondo me sarebbe stato una variante utile. Tattica, ma sarà decisivo anche per l'Inter, anche se notizie dicono che non è che ci saranno grandi stravolgimenti e che anche Spalletti è abbastanza nervoso sul punto. Però io con il mio amico Giancarlo Marocchi, che è stato un grande giocatore come ben sapete, vorrei condividere una riflessione che mi manda ai pazzi quando qualcuno mi chiama a proposito 800 24 00 24, e sono pronto a rispondervi. Quando qualcuno, specialmente le vedove di Conte, mi chiamano e mi dicono: ah, ma questa Juventus gioca male a pallone. Io sono abbastanza stufo di questa definizione, perché il calcio, come gli sport di squadra, si gioca in due metà campo che valgono il 50% l'una, e secondo me la Juventus dell'altra sera, come l'Inter di Barcellona, come, non so se Pardo ha raccontato, la Juventus a Barcellona l'anno scorso, è stato un grande spettacolo agonistico, sì, e sportivo. Vero. Ma sì, poi ogni squadra raggiunge la sua perfezione estetica a modo proprio e a gusto personale, quindi cioè, è inutile voler far prevalere il proprio gusto personale, che non ha nessun senso. Ognuno si tenga al suo e vada a ricercare il suo nella squadra che segue, ecco. Su quello assolutamente, cioè, è inutile fare classifiche, c'è già la classifica dei punti che è meravigliosa, inattaccabile, insindacabile, e quella alla fine assegna al titolo, pur che è giusto anche il fatto di andare alla ricerca del bello, ecco. Però poi alla fine è la classifica, quindi no, ma Giacomo, cos'è il bello? Non apriamo discussioni filosofiche. Per no, me il bello è vedere, non ci penso nemmeno, è veder giocare la Juventus come ha fatto l'altra sera. Mi è sembrato una squadra di pallacanestro, io sono afficionato, no? Se mi dici, ok, la 1-3-1 della vecchia Milano di Peterson era solo una difesa, io mi metto a ridere, perché quella era un capolavoro di arte moderna contemporanea. Che dire, era come Mike l'altro giorno era come Mike D'Antoni nella 1-3-1. Cioè, no, a me quella roba lì piace. A me quella roba lì piace. Il Napoli, che è oggettivamente bello tante volte, l'altra sera non è stato bello, perché è un meccanismo, no? La famosa orchestra che però non riesce a tirar fuori la soluzione. Allora se non tira fuori la soluzione sbatte sempre su se stessa come un disco rotto. Questo mi è sembrato il Napoli d'altra sera, senza grandi alternative. La domanda che faccio al professor Marocchi è se in questo momento, al netto della sfiga, che è una componente indiscutibile, perché quando tu perdi Gulam e Milik per due infortuni traumatici, è chiaro che un po' di sfiga te la sta dicendo, però insomma, al netto dei problemi, e quindi con i titolari che ha a disposizione Sarri, un piano B è impossibile o tatticamente secondo te lui potrebbe trovare delle soluzioni? Allora, è impossibile oggi, fermo restando che Sarri va anche bene che riproponga la stessa squadra senza mai cambiare, quindi 4-3-3 fino alla morte, ma lui avrebbe dovuto preparare la squadra ad essere al top venerdì. E non l'ha fatto perché Di Francesco contro la SPAL non conduca Nainggolan e neanche Perotti. Invece Sarri contro la SPAL fa giocare questi. Se non fai giocare Giaccherini e Unas, non ti possono neanche aiutare nei 10 minuti che gli dai contro la Juve. Cioè tu devi portare Caglione, Insigne e Mertens al top e non devi farti prendere dalla sfregola, perché non hai una squadra strutturata fisicamente, di fare 180 minuti inutili, tentarli di fare alla pari in Champions contro il City, perché poi vedete anche Di Francesco, che è il più giovane del gruppo degli allenatori, alla fine sembra il più esperto nelle rotazioni. I titolari o presunti tali giocano in campionato, le alternative quasi titolari fanno la Champions, non fanno la Coppa Italia svogliati eccetera, fanno la Champions e alla fine la fanno pure bene. Cioè, questo è questo che non fa Sarri, e alla fine ti manca quel pizzico di energia e che ti fa perdere con una Juve perfetta, che è arrivata lì, bella, perfetta, poi ognuno la chiama come gli pare, alla Juve ha fatto la partita che doveva fare e ha vinto meritatamente. Il professor Marocchi ha un libro stampato, a cui io chiedo un secondo, perché vorrei da lui anche una considerazione sull'Inter di Spalletti e sull'Inter che abbiamo visto ieri sera e sull'Inter che, e qui condivido Pardo, è a pieno titolo, secondo me, con Juventus e Napoli, una delle aspiranti a un titolo mai così vacante. Traffico. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta... Convocati. Allora, io Giancarlo Marocchi volevo chiedere ancora questo, approfittando della sua presenza. Pierluigi Pardo ha ragione quando mi ha coinvolto in questo, così, in questo trip corretto. L'Inter è uno delle pretendenti al titolo. Tu prima hai fatto un ragionamento perfetto, cioè tu devi usare i giocatori per tenerli vivi nel momento in cui ti servono. A proposito del Napoli, mi sembra, Gianca, che Spalletti stia facendo questo, volente o nolente, con quelli che ha, perché tu guardi Santon, tu guardi Ranocchia, tu guardi quelli che ha rivitalizzato, guarda la partita di ieri di Brozovic, lasciamo stare quelli che sono comunque forti, Candreva, Perisic, Icardi, che hanno comunque trovato la loro strada, però mi sembra sia quello che Spalletti sta facendo ed è una grande cosa per un allenatore. Sì, poi Eder gioca 5 minuti ogni tanto, però lo vedi sorridente e coinvolto. Lui ha fatto bene a non farsi deprimere subito dal mercato e non aver accumulato giocatori inutili. Alla fine ne hanno presi 3 e sembra che ci abbiano proprio azzeccato con tutti e 3. Cioè, alla fine c'è equilibrio, la qualità c'era già, non riuscivamo tutti a capire, hanno fatto fatica anche Mancini, Pioli, gli allenatori a capire come incastrarli bene questi giocatori, e Spalletti c'è arrivato subito e adesso bisogna che facciano tutti i conti con lui, perché poi lui energie non le sprecherà tra virgolette durante la settimana, e alla fine potrebbe essere un piccolo vantaggio, capito, che c'è anche la Roma, quindi potrebbero essere in 4.5 a lottare per lo scudetto. Ecco che le differenze potrebbero essere, e speriamo tutti che siano minime, verso aprile. Io credo di sì. Mentre c'è Enrico Bertolino che ti ascolta, l'Inter è da scudetto, Giancarlo Marocchi? Sì, sì. Bertolino, hai sentito? No, no, perché avevo le mani occupate. Oh, non lo dico io, che quanto non l'ha detto Marocchi. Marocchi ne sa più di me, conseguentemente di calcio ne sa più di me. Lo accetto come auspicio, ecco, un bel auspicio, però non credo, perché poi la panchina lunga alla fine conta, se penso meno. Siete personalmente. Siete tutti uguali, Posso la panchina lunga è fastidiosa, mettetevi tutti in testa una volta per tutte che la panchina lunga è fastidiosa, perché in panchina non ci va nessuno volentieri. No, aggiungo a questo per farvelo capire, neanche tanto, anzi dico tanto meno, tutti quelli che adesso i miei cari coetanei sono diventati allenatori, che dicono io ho bisogno della panchina lunga per avere allenamenti motivati eccetera, loro 20 anni fa col calcolo erano contenti di fare degli allenamenti motivanti per l'allenatore. Quando ti mandavano in panchina ti incazzai con una pantera, Gianca, però devo dire che la panchina che ha utilizzato ieri ad esempio Spalletti, anche a livello multinazionale, motivazionale intelligente, cioè perché ha fatto diventare titolare Ranocchia, che non giocava da tanto tempo, e Ranocchia ha giocato da titolare. Certo, in una squadra che funziona, ma Ranocchia, guarda che facciamo della filosofia dell'ironia su Ranocchia, non è mica assurdo, è un giocatore assurdo. Di calcio, Ranocchia, voglio dire. Era il capitano fino a po' di tempo fa, Andrea, non dirlo a me, dillo ai tuoi colleghi di tifo. Devo salutare Giancarlo Marocchi, ringraziarlo, sì. Ci vediamo presto. Giancarlo. Ciao, grazie, ci vediamo domenica mattina, tu sai dove. Hai sentito questa, Pierluigi? Sei lì? Sì, sono qui, certo. No, abbiamo cominciato a prendere in giro Enrico Bertolino. Vuoi unirti al coro? No, perché sono tutti così gli interisti. In questo momento stanno allineati ai coperti. Io lo invito a riutilizzare le mani come prima, perché io confermo, cioè riconosco di aver cambiato idea, nel senso che all'inizio della stagione non lo pensavo. Io insieme a te. Ma da qualche settimana, e in particolar modo l'ho commentato a Cagliari, dove ha giocato una brutta prima mezz'ora ed è andato in vantaggio e non ha praticamente mai rischiato, e poi ieri l'ho vista, insomma, in questo momento in una condizione straordinaria. È chiaro che adesso arriva una di quelle partite che può, esattamente come Napoli-Juve, come ci diceva Marocchi, ha un po' cambiato gli umori e diciamo il sentiment, questa Juve-Inter lo può cambiare in un senso o nell'altro. Io penso che l'Inter abbia 2 risultati su 3, onestamente. Sì. Io penso che per il fatto di giocare fuori casa, se dovesse uscire comunque con un risultato positivo, avrebbe una ulteriore carica di energia e di autostima. Senti, ma dimmi una cosa, io l'Inter quest'anno, Enrico, non so quante volte hai visto l'Inter allo stadio, Enrico? No, quasi sempre, perché cioè, tranne le partite come Milan non vado mai, perché mi viene l'herpes. Cioè, se no mi incazzo, cioè, io non posso arrabbiarmi per il calcio, sto a casa a arrabbiarmi da solo, non voglio litigare con nessuno. Bravo. Allora lo evito perché le sento troppo, no? Allora vado a vederle, non quelle di facili non ce n'è più, ecco, sono stato a vedere l'Atalanta, sono stato a vedere il Genoa, sono andato a vedere l'Inter contro il Chievo, appunto anche ieri, e però non tanto che c'è una bella evoluzione, ma poi soprattutto c'è questa la voglia che vedo nei ragazzi che fanno le cose. Cioè, ieri Candreva ha fatto un solco sulla fascia, sì, sta giocando meravigliosamente, ma io volevo usare appunto la vostra esperienza da stadio per questo. Pierluigi, perché le commenta, tu perché le vai a vedere, cosa impressiona l'Inter vista dal vivo, perché io sono sempre qua seduto sullo sgabello. L'evoluzione, sì. Enrico, ha visto Inter Genoa, ci ricordiamo Inter Genoa, sì, è vero, sì. Fino al gol di D'Ambrosio c'era confusione, ma poi anche Spalletti che cambia in corsa dimostra umiltà, perché uno che si mette a specchio al Cagliari e dice no, devo avere capito male io. Quando uno cambiare durante uno spettacolo, ad esempio, è difficile. Se tu hai un copione solo, se non sei un po' versatile, non hai qualche soluzione alternativa e vedi che la gente non ride quando sei sul palco, non è che puoi scendere, devi finire lo spettacolo. E questa roba qua, lo spettacolo a San Siro c'è stato ieri, devo dire, a tutto rispetto del Chievo, che poi mancava tutta la metà, sì, sono venuti un po' Chievo. In gita premio col paletto di sinceramente, bisogna anche essere onesti, Marana ha già fatto dei miracoli con quella squadra, poi gli toglie anche Castro, gli toglie tutti quelli che gli servono, gli si fa male Rigoni, bellissima la staccata di vederla in televisione, eccetera eccetera. Sinceramente, però affrontare la partita così, noi una partita così anni fa l'avremmo affrontata in maniera diversa, saremmo andati magari sotto sulla prima o pareggiate, e da lì cominciano a perdersi gli equilibri. Io ho visto Santon che gioca a calcio, ho visto Joao Mario che non ha mai corso così da quando è a Milano, cioè, ma neanche per prendere l'autobus, per cui è una bella sensazione. Sono le cose che impressionano anche me, sai Enrico, sono le stesse cose che impressionano anche me. Ma Pier, tu che comunque la Champions League la bazzichi ogni any given week, ogni dannata settimana, in valore assoluto due giocatori come Perisic e Icardi quanto valgono? Non sto parlando di soldi, No, valgono tantissimo perché appunto c'è oltre Icardi c'è di più. Stasera penso che faremo uno schermone come questo Tiki-Taka, perché devo dire la verità, insomma, Perisic era arrivato con delle buone credenziali, però poi sai, fra il Wolfsburg e l'Inter c'è differenza, i campionati, bisogna acclimatarsi, insomma, mancavano le controprove famose e stanno arrivando adesso. Fino all'anno scorso era un giocatore abbastanza umorale, certamente con dei bei colpi, e quest'anno è diventato un crack uno come Perisic. Adesso poi siamo abbagliati dalla tripletta, e quindi, però in generale questo è vero, insomma, dai, non è inutile girarci attorno. E vabbè, Icardi, dai, inutile parlarne, Icardi in questo momento è uno dei migliori attaccanti al mondo. Certo, manca quella controprova lì, nel senso che poi non l'abbiamo mai visto giocare una Champions League, però insomma, secondo me l'anno prossimo la gioca, ecco. Ah, sì, anche secondo me. No, Enrico Bertolino, un'ultima cosa. Ora... Io vorrei parlare anche di un difensore, però, di Skriniar, che ho rivisto i prodromi del grande campione, ma quelli veri. Di quello, la sicurezza, tranquillità. Io però io giocavo in difesa ed ero un quinto di una gamba di Skriniar come tranquillità, nel senso, perché giocando dietro non sei mai l'eroe, sei sempre il pirla, perché quando sbagli è quel cretino là, è l'ultimo che ha sbagliato. Senti, lui è sicuro da dietro, e poi ieri ha fatto un gol di testa dove è sicuro davanti anche, cioè aiuta davanti e aiuta dietro e corre. È un giocatorone, questo lo sappiamo, ma per chiudere, allora, di comicità te ne intendi? La caricatura Milan-Benevento con... Non si infierisce, perché lì scatta la comicità, si passa alla compassione, e la compassione è un altro sentimento. Lì è stata una cosa brutta, cioè veramente, però io ho visto gli ultimi 10 minuti, perché chiaramente si era tutti lì a gufare, lo stadio attaccati tutti sul trespolo. Certo. E dopo l'espulsione di Romagnoli è una bambola totale, cioè non sapendo più nessuno dove andare. Non puoi oggettivamente. E poi settimane scorse c'era stato quello che mi hanno detto: voi avete preso il gol da Benevento, perché noi l'abbiamo preso, abbiamo rischiato anche noi del pareggio là a Benevento. Però dico, ragazzi, ieri a un certo punto, dopo l'espulsione Romagnoli, sembravano loro 22 e gli altri 10. Il fatto del portiere è la ciliegina della storia. È la caricatura. Facciamo un pezzo, c'è la chiusa ci deve essere. Ed è una cosa, però la squadra sbandava fortemente negli ultimi minuti, e questa cosa qua non può permettersi. Però vedi, lì è il discorso di Spallettini: l'acquisto più grande che abbiamo fatto è stato uno che c'era già. Sì. E sì, hai fatto tanti acquisti che vengono da fuori, devi farli giocare insieme, caratterialmente devi farli renderli compatibili, e poi devi correre. Oggi il calcio è corsa. Sì, è corsa, organizzazione, ed è fiducia in chi ti guida. Esatto. Mi viene in mente anche di Francesco: i giocatori della Roma sono giocatori che... Sto parlando ovviamente della Juventus, perché lì è chiaro, ma sono giocatori che seguono il loro allenatore, esattamente come succede all'Inter. Enrico, grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao, a voi, un abbraccio. Ciao. Comunque, Francesco chiamerà D'Alema comunque per i prossimi consigli. D'Alema, ok, va bene, sarà ciao. Ci pensi tu, Pier? Lo rintracci tu? Beh, insomma, sai, D'Alema aveva detto quella cosa, ma poi l'aveva anche chiarita, era un fuori onda. Poi sai, io su fuori onda sono garantista. Anch'io abbastanza. Un conto, ma perché semplicemente un conto è se uno una cosa la dice, diciamo così, in confidenza a un amico, e magari gli parte anche un po' la battuta, l'esagerazione di perbole, ritrovarsela scritta sui giornali. Però insomma, aveva detto che la Roma rischiava la zona retrocessione, poi si era immediatamente chiarito. Sta di fatto che da quel giorno, credo che fosse dopo Roma-Inter quella... La frase, sì, insomma, la Roma è decollata. Sì. Beh, ma se, sai, essendo un po' bastards inside come noi siamo, sono cose che, come a Bertolino, no, ma io sono bastards inside, però sono bastards inside, però su fuori onda un po' meno. Perché, no, ma anch'io, Piero. Cioè, sulle conversazioni private, nel senso che un conto se ti dico, sì, vabbè, andare in Serie B, è un conto se in realtà quella cosa la penso, ritrovarmela scritta. Come se D'Alema due punti, la Roma andrà in Serie B. Guarda, questo vale ad ogni livello, su qualunque argomento, anche quelli ben più seri. Allora, ci dobbiamo fermare per la borsa. Marco e Antonio, vi prego, rimanete in linea, parliamo con voi subito dopo. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Qualcuno dalla panchina diceva sali, io da lì ho detto senti ormai tanto 2-1 non c'è più niente da perdere, quindi sono andato a saltare e ho chiuso gli occhi e ho fatto solo una cosa distinto, perché alla fine ho fatto un tuffo da portiere, non ho fatto un tuffo da attaccante, quindi è incredibile. Neanche Brignoli a saltare in area di rigore. Va Cataldi dentro Brignoli! Brignoli! Ha pareggiato Brignoli! Ha segnato il portiere del Benevento! Non ci credo, cioè non è che non ci credo, però è talmente difficile la probabilità di far gol su un'ultima situazione del genere. Sono felice per tutti, guarda, per tutta la gente, per tutta la società, il presidente che non ha mai detto una parola fuori posto, c'è sempre stato vicino, anzi, e poi per tutta la gente che sicuramente sta vivendo un sogno e si aspettavano che questo sogno fosse un po' migliore. Ritorniamo alla caricatura di qui sopra, cioè quella del Milan, che secondo me è una non notizia di questa giornata di campionato. Ma come ha detto prima Bertolino, con grande cattiveria e sarcasmo suscitano compassione, il che detto da un interista. Pier, viene in mente Maradona, ti ricordi quella volta? Non datemi del poverino, preferisco figlio di puttana, ma poverino no. Una roba più o meno così. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Chiamo da Viareggio, in provincia della Toscana. Io venerdì ho assistito come un po' un infiltrato a Napoli-Juventus e volevo portare in tribuna centrale, volevo portare le mie considerazioni. Innanzitutto, mentre facevo il viaggio per Napoli in macchina con due amici napoletani, loro mi dicevano: ti renderai conto oggi pomeriggio che noi non vinceremo mai lo scudetto. Perché? Perché lo stadio è brutto, perché il gioco che abbiamo è statico e alla fine della partita ho dovuto dire a questi miei amici: effettivamente avevate ragione. La mia prima considerazione: è vergognoso oggi andare a vedere uno spettacolo di calcio, tra l'altro assieme ad una popolazione che è fantastica, quella napoletana, in uno stadio come quello di Napoli. E così come Napoli ci sono diversi stadi in Italia, e questo è un po' il sinonimo della arretratezza del calcio italiano da tenere in considerazione. Sì, no, passiamo a discorsi strutturali, poi abbiamo uno stadio che è un porcino, non vinciamo lo scudetto, cioè secondo me è un accostamento un po' ardito. Sì, è stracondivisibile secondo me il ragionamento. È chiaro che il San Paolo, non solo il San Paolo, ma il San Paolo è uno di quegli stadi che avrebbe veramente bisogno di un bel restyling. C'è stato un restyling l'anno scorso per Napoli, Real Madrid e per la Champions League, ma riguarda essenzialmente la zona stampa. In realtà servirebbe proprio dal punto di vista urbanistico un restyling dello stadio, e immagino che anche dal punto di vista dei parcheggi, insomma, non sia semplicissimo. Detto questo, non è lo stadio quello che ti fa vincere il campionato. Quindi la considerazione è assolutamente ricevibile e condivisibile, però sono d'accordo che poi alla fine contano altre cose. Tant'è vero che il Napoli sta fino a ieri pomeriggio in testa alla classifica. Io non penso che sia finito tutto. Però ripeto, fino a gennaio bisogna che il Napoli respiri, stringa i denti, porti a casa dei risultati. Poi la differenza tra grandi e piccoli è tale che secondo me veramente si può pensare che arrivare allo sprint, così lo sprint, esatto. Sì, e sì, chi sì. Ci arriverà meglio secondo me poi alla fine si porta a casa lo scudetto. Antonio, anche lei dalla provincia di Napoli, anche lei è così disfattista, no? Perché mi sembra che un refrain comune, gli interisti dicono no, non siamo attrezzati, il Napoli ecco non vinceremo mai lo scudetto. Un po' di ottimismo. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio anche a Pierluigi, grazie per la convocazione. Niente, disfattista no, però la cosa che mi ha dato enormemente fastidio, oltre alla sconfitta, sono le dichiarazioni di Sarri. Come può fare un allenatore del genere fare delle dichiarazioni a fine partita mettendo in risalto delle cose che un allenatore che tiene la propria squadra si sogna di dirle. E poi cioè vedere tipo anche cosa, no? Per essere per ricordare anche la gente in merito a un Az che l'ha stroncato e poi al discorso di Higuaín, cioè tutta la dinamica della cessione di Higuaín, cioè è stata per noi napoletani veramente un fatto che non può passare e lo ricorderemo sempre. Cioè fischiare, cioè io sono tifoso, cioè fischiare Higuaín, cioè cavolo, cioè non lo posso nemmeno fare, cioè è mettere in condizioni a dire a un tifoso devi soltanto stare a quello che diciamo noi e facciamo noi. No, il fischio, ha il diritto di fischiare. Sì, no, ma i fischi infatti ci stanno, e Higuaín se li prende e poi esulta, giustamente come fanno i giocatori veri, e quelli veri esulta dopo aver segnato il gol al Napoli. Guarda verso la tribuna, ma magari quello pure eccessivo, non vedendo il presidente De Laurentiis. Ma io ne faccio rispondere, oltre che da Pardo, anche da Luigi Garlando, appena del calcio sulla Gazzetta. Ciao Gigi. Ciao ragazzi. Hai sentito questa considerazione? No, stiamo disquisendo di massimi sistemi. Sì. Tutti lo vogliono e nessuno lo piglia lo scudetto. L'Inter non siamo attrezzati, il Napoli no, siamo piccoli e brutti, rimane lì la solita Juventus, però mi sembra un discorso abbastanza allargato. La Roma ci crede, la Lazio sta facendo una stagione straordinaria come refrain delle ultime stagioni. Beh, mi sembra qualcosa di interessante questo campionato, sia da raccontare per iscritto come fai tu, che da raccontare al microfono come fa Pardo. Gigi. Sì, assolutamente, in realtà lo vogliono tutti, e quindi anche se negano, tutti hanno la sensazione di poterci arrivare, questo è anche il bello, per cui anche chi poi che si nega, è come la stessa Inter, che giustamente se si sente leggermente meno attrezzata delle altre ha ragione, però capisce che insomma ha dei vantaggi sulle altre, cominciare dalle settimane libere da coppe, da una fame e da un entusiasmo che magari la Juve fatica a imporsi, e insomma per ragioni diverse io credo che davvero tutti ci credano, e poi e proprio per questo sarà una corsa vincente. Quindi siamo della teoria di Pardo, a marzo comincia questo lungo sprint, sì, scudetto. Sì, sì. Ma guarda che è bellissimo, questo è veramente un dono, un campionato così, un vero, campionato con 4-5, perché poi ieri comunque la Lazio vincendo è rimasta aggrappata pure lei, cioè, arrivare a dicembre con 5 squadre che possono sognare lo scudetto è veramente bellissimo, quindi da questo punto di vista secondo me ci godiamo, quello diciamo qualche altra volta, insomma il bicchiere mezzo vuoto è perché abbiamo delle partite bruttarelle delle volte, no? Perché abbiamo la differenza tra grandi e piccole enorme, e quindi è pieno di partite abbastanza scontate. La cosa molto bella però è che veramente tutti possono sognare lo scudetto, tutti, quelle 5 possono sognare lo scudetto, e ognuna di loro ha delle armi, non c'è in questo momento un copione o un fiale già scritto. Sì, ma poi anche la forbice tra le grandi e le piccole, che è stata un po' insomma l'elemento caratterizzante di questa prima parte, io credo che andrà restringendosi. Ricordiamo il Crotone l'anno scorso, vediamo il punticino del Benevento, vediamo lo stesso Crotone che è cresciuto anche quest'anno, quindi anche da quel punto di vista lì io credo che la seconda parte del campionato si divertirà di più. Sì, però dovete spiegarmi e convincere ancora del fatto che dei motivi per cui l'Inter non ci debba credere. Allora ripetiamo ogni giorno io per Luigi che è un campionato che si gioca sui confronti diretti. Con tutta onestà, io la Lazio che adoro, come Pierluigi sa, io non la vedo, quindi ne vedo 4. Allora, parliamo di confronti diretti. L'Inter è andata a vincere la Roma sul campo della Roma, è andata ad incartare il Napoli. Nei confronti diretti fino adesso non ha mai steccato, ha vinto il derby, allora perché non dovrebbe crederci? In questo sposo la tesi di Pierre. No, l'Inter ci crede, sì, dai. Sì, sì. E allora, no, ci crede, però la partita con la Roma... È vero che ne è uscita con una grande solidità, un grande Icardi, però insomma ricordiamo la storia di quella partita, ha tradito un po' il risultato, quello bisogna ricordarlo. E poi soprattutto io credo che insomma il tallone d'Achille in questo momento sia la disponibilità della panchina, no? È vero che anche qua Spalletti sta facendo veramente magie, perché come ha riproposto Santon, come lo stesso Ranocchia ha riproposto perché ieri. Perché no? Perché no? Se gli viene il raffreddore ai Cardi, anche per quanto mago sia, non so cosa può inventarsi, e anche a centrocampo, insomma, la Juve che va a Napoli avendo fuori Mandzukic, che ti mette Cuadrado a partita in corsa, che non si ricorda neanche più di avere Bernardeschi, cioè è la stessa Roma che può cambiare gli esterni. ha un'attrezzatura che allunga sul cammino, gli dà qualcosa di più, ecco, e quindi questo io credo sia l'unico limite di questa Inter. Quindi il discorso che vale anche per il Napoli che non hai citato? Forse anche il Napoli, anche perché fatica ad avere alternative di gioco, no? Bravissimo, stracelebrato Sarri quanto vuoi, però poi insomma troppo uguali le partite dell'Inter e della Juve a San Paolo, quindi l'hanno incartata troppo nello stesso modo per dire ma perché non provare qualcos'altro. È vero che Milik non ce l'hai, però puoi fare 4-2-3-1, poi ecco anche questa condanna del Napoli a essere la coppia perfetta di se stessa rischia di diventare un limite, mentre la forza di questa Juve nuova, l'ultima rispetto a quelle precedenti, è proprio quella di avere la forma dell'acqua, cioè si adegua alla necessità, mentre prima avevi Conte che era riconoscibile, l'anno scorso avevi la formula del 5 stelle riconoscibile, quest'anno la forza nuova della Juve che non la conosci, non sai come sarà la prossima. O meglio, lo sai perché Allegri, io continuo a ripetere, in questo momento è il più bravo allenatore italiano che c'è. Ora, stai lì Gigi un attimo per favore, sì. Pierluigi, con Pierluigi Pardo, traffico, poi parliamo di un altro grande allenatore italiano che ieri alla Domenica Sportiva ha detto delle cose, Carlo Ancelotti. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. La mia idea è di stare fermo fino a giugno, perché ho un contratto col Bayern fino al 30 giugno e questo contratto io lo voglio rispettare, ma questo, diciamo, al limite non sarebbe un grosso problema, perché io credo che la nazionale sfortunatamente non ha impegni, diciamo, ufficiali fino a settembre, per quello non credo che quello è un grosso problema. Credo che prima il calcio italiano deve risolvere altri problemi che non trovare un commissario tecnico. Allora, Ancelotti così ieri sera, tra le altre cose, la Domenica Sportiva si è molto insistito sull'argomento nazionale. Ovviamente io faccio una parafrasi cattiva, non so se Gigi Garlando e sì, ovviamente mio amico Pierluigi Pardo condividono. Parafrasando in maniera maliziosa, Ancelotti ha detto: va bene, io fino a giugno sono pagato dal Bayern, poi voglio allenare un club, perché non vado a seppellirmi allenando alla mia età una nazionale, ho ancora voglia di club, ho ancora voglia di stare in campo tutti i giorni e del grano che mi danno i club, quindi voglio essere ancora primo attore. Se poi non succederà nulla di questo, beh, magari vediamo se ci sono le condizioni per allenare la nazionale italiana. Forse sono spietato, cattivo o malalingua, fate voi ragazzi. Sì, forse un filino, ma non così tanto. Io credo che non sia solo il fatto di sprofondarsi in una professione che lo tiene lontano dal campo, ha detto, ma anche, dovrei cambiare lavoro, l'ha sì, ripetuto almeno tre volte. Sì, però anche secondo me è significativo quando dice prima del CT bisogna cambiare delle cose, cioè lui non verrebbe non solo perché il lavoro gli piace meno, quello di selezionatore rispetto allenatore, ma anche perché non si va in una struttura dove non capisci cosa sarà, cosa comanda. In un altro passo ieri sera ha detto anche i club dovrebbe, la nazionale dovrebbe comandare più sui club, ecco anche questo. Allora, se si crea una struttura come c'è all'estero, dove la nazionale è rispettata, è considerata una cosa importante, è aiutata dai club, dove so chi comanda, e magari al vertice ci sono ex giocatori che hanno studiato tipo Albertini e non solamente politici, ecco, allora forse ci posso pensare. Io credo che il discorso di Carlo fosse quello. Firmo al 100%, però è vera pure la tua analisi un pochino... borderline, cioè, sì. Di fondo essenzialmente è una bella ragazza che ti dice: guarda, adesso sono fidanzato per i prossimi 6 mesi, poi dopo vediamo, perché in realtà c'è stato un paio che mi piacciono molto e capisci. Ma vabbè, però comunque ti adoro Bardo, grazie. No, hai ragione, però ti ripeto, non è che sia antipatico Ancelotti, tutt'altro. Ancelotti appartiene a quella categoria di top manager a livello mondiale, e i Mourinho, i Ferguson adesso in pensione, che hanno altre priorità, i Guardiola. Allegri, cioè, perché non mi citate mai Allegri, ragazzi? No, ma è uscito Allegri, anche se Allegri secondo me potrebbe anche essere invece attratto dalla nazionale. Ma no, ma voglio dirti, noi non dimentichiamoci, allora, fra le mille colpe di Tavecchio, comunque fra le colpe di Tavecchio certamente non c'è il fatto di aver cacciato Conte, ricordiamocelo sempre. Ma Conte se n'è andato via lui perché i grandi allenatori, Ancelotti è in questa categoria, vogliono fare un altro lavoro, che è il lavoro di club, che è un lavoro più pagato ed è un lavoro probabilmente anche più rispondente alla loro, che premia di più il talento, perché la vita di un commissario tecnico dipende veramente da un paio di partite, da mezza situazione, dal palo di Darmiano, cose simili. La vita di un allenatore di una squadra di club, è vero che poi c'è sempre eventualmente una finale di Champions League che può finire ai calci di rigore, dove dipende da John Terry che scivola, tanto certo. Insomma te la giochi un po' di però più, però te la giochi soprattutto tutti i giorni, appunto, te la giochi appunto tutti i giorni e dietro giusto compenso. Poi la nazionale, appunto, adesso c'ho altre ragazze. Per chiudere la metafora, io non so chi sarà il presidente della federazione, però tendenzialmente direi a Carlo Ancelotti, una volta che ha chiamato quelle tre tipe, eccetera, nel caso comunque di chiamarci, perché secondo me rimarrebbe, nonostante tutto, una grandissima scelta. No, quello che non capisco io è il discorso dei soldi. Cioè, ma guarda che Carlo ne ha guadagnati veramente. Vabbè, ma che c'entra Gigi? Cioè, ma che c'entra? No, tu mi dici quello dei soldi, ci interessa i soldi. No, ma per i professionisti è una questione di Carlo. No, aspetta. Il discorso in generale sugli stipendi degli allenatori di club. Okay, ragazzi, però a parte il fatto che non ne regala nessuno, però è un discorso di status per i professionisti. Allora, io voglio guadagnare per quanto valgo, perché devo andare a prendere o meno quando posso prendere di più, ma non è questione di ingordigia. È questione di status quasi. No, ma la mia domanda era più profonda, era: ma cosa gli servono i soldi a Carlo se quando ha tempo libero va in Canada a pescare i salmoni? Ecco, questo comprare questo le esche. Esatto. Mi serve molto molto meno, ecco. Senti Gigi, una battuta secca sì o no? Juve, parlare di partita scudetto a dicembre in far venire l'orticaria e anche Pierluigi, ma quella di Torino di sabato sera cos'è? No, è una cosa che comunque, se non è una partita scudetto, ci assomiglia molto, perché darà le dimensioni dell'Inter soprattutto. Io credo che la Juve non la sbaglierà, come ero sicuro che non avrebbe sbagliato quella di Napoli, no? Casomai la Juve potrà perdere altri punti come quelli di Marassi, perché come dicevo non si accende più automaticamente come una volta la fame, la concentrazione. Invece l'Inter questa non può sbagliarla, cioè se tiene la calma, anche la tranquillità, i nervi tesi, non finisce magari come l'anno scorso tradita dai nervi e passerà anche questo scoglio, allora bisognerà guardarla con occhi diversi, perché poi al ritorno Juve, Roma e Napoli dovranno passare da stati. Grazie Gigi, a presto. Ciao, ciao Luigi Garrano. Ciao a tutti. Ciao. Facciamo in tempo a sentire Moreno? Certo. Moreno, buongiorno, dica. Buongiorno. Durante la stessa biblica già avete risposto in parte. Sorry, ma siamo dei chiacchieroni. Perugia, super fardo. Sì, okay. Ho chiamato un milione di volte con l'occasione e non volevate neanche ascoltarmi, va bene. Io volevo chiedervi, dovesse fallire l'Inter con la Juve, visto che io sono un reduce del triplete, Mourinho, quant'altro, sarebbe comunque sia un fallimento, visto che Mancini a gennaio era primo, poi aprile è stato esonerato perché ha perso 8 partite a fila? No, io non credo ci siano, perché a me sembra una storia diversa questa. No, a me sembra che se l'Inter dovesse arrivare anche quarta sarebbe comunque un obiettivo centrato, ma secondo me arriverà sopra il quarto posto. Ti posso dire questo, l'obiettivo di quest'anno era tornare in Champions, non dimentichiamoci che c'era anche il Milan nella corsa teorica, cioè c'erano almeno sei squadre in corsa per quattro posti più eventuali outsider, quindi se arrivi nei primi quattro posti con la nuova formula della Champions già centri l'obiettivo. Se fai qualcosa di più importante, beh, ti avvicini a qualcosa di clamoroso. Se poi lo dovesse vincere, vabbè, stava a San Dir. No, io non vedo proprio rischi di fallimento. Nemmeno io. E non vedo neanche, ne avevamo parlato all'inizio della stagione, io vedo una dinamica diversa, un'evoluzione esatto, diversa rispetto Pierluigi, due anni fa all'Inter di sì, Mancini, due anni fa vedo anche una dinamica diversa, infatti come vedi, come noti, si è smesso anche di parlare di fortuna mica fortuna della palla dentro, cioè mi sembra una storia più diversa, più strutturata, dai, più profonda, e ha avuto una crescita. Bravo. Guarda quell'Inter Genoa che ha ricordato prima Bertolini, secondo me è la partita chiave, è stata la partita chiave in cui l'Inter ha detto ok, siamo anche in grado di giocare bene a pallone, per quanto i discorsi sull'estetica, come tu ben sai, sono abbastanza aleatori. Ci sentiamo domani. Buon tichitaccheggio, ti vedo stasera. Grazie, ciao, grazie. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Ciao, oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!